rassegna stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. Cominciamo questa volta dal Regno Unito. Ci sarebbe anche naturalmente da riportare gli ultimi risultati elettorali in Germania, perché come sempre c'è un forte legame in queste elezioni, specie se sono locali, con i cambiamenti che ci sono all'interno dello scacchiere dei partiti politici nei vari paesi, e ci sono moltissime analogie europee. Come sicuramente avrete sentito, in Germania si sta affermando questa Alternative für Deutschland, cioè Alternativa per la Germania, che è un partito di estrema destra, possiamo dire. E però, a parte questo, che appunto vede poi paralleli in tante altre elezioni europee, dalla Spagna, se vogliamo anche in Italia, nel senso di successo di un partito che raccoglie la protesta come il Movimento 5 Stelle, senza essere di estrema destra, e ci spostiamo quindi nel Regno Unito. Nel Regno Unito, spiega il Daily Telegraph, c'è questa svolta che sarà una donna, il nuovo leader del UKIP, sapete il partito che è stato guidato da Nigel Farage, che poi si è fatto da parte. Il 16 settembre è stata eletta come presidente del partito Diane James. Questo UKIP in realtà sta per Partito per l'Indipendenza del Regno Unito. Naturalmente sono stati grandi sostenitori della Brexit, cioè la decisione della Gran Bretagna di uscire dall'Unione Europea, presa dopo il referendum del 23 giugno scorso, e ora devono però trovare una loro collocazione politica. I primi mesi post-Brexit, tutto sommato, sono stati a loro favorevoli, perché immediatamente prima del voto e immediatamente dopo erano stati prefigurati scenari catastrofici per l'economia britannica, che non si sono verificati. E anzi adesso, ma è una logica di breve periodo, il Regno Unito sta quasi avendo dei vantaggi da questa Brexit, che peraltro, anche qui per le bizzarrie della storia, in realtà la Brexit ancora non c'è, non si sa nemmeno quando ci sarà, in che termini, però il solo averla evocata e sancita con un referendum ha scatenato una serie di reazioni. Passiamo a un altro voto importante perché comunque influenza moltissimo quello che succede in Europa e quello che succede tra l'Europa e gli Stati Uniti, quindi anche qui lo scacchiere internazionale delle relazioni che coinvolge direttamente il nostro continente e l'Unione Europea. E parlo del voto in Russia. La Gazzetta, che è un quotidiano russo, come tantissimi altri organi di stampa del paese, si sono occupati del voto che c'è stato settimana scorsa in Russia, appunto, e come sapete queste erano politiche, non erano amministrative, e il partito di Vladimir Putin ha vinto con una maggioranza assoluta, però c'è stata anche un'astensione molto alta. Questo forse è l'unico dato che vale la pena di analizzare in profondità. L'articolo della Gazzetta si intitola "Il voto per la Duma non ha sorpreso nessuno", quindi non ha sorpreso né il fatto che i votanti abbiano votato in larghissima maggioranza per Russia Unita, che è il partito di Putin, né che ci sia stata questa alta percentuale di astensione. Anche la politica russa potrebbe presto, magari alcuni analisti dicono, accogliere magari dei partiti nuovi che raccolgano anche lo scontento, non necessariamente la protesta di chi appunto lo esprime non andando a votare. Però insomma la situazione della libertà politica in Russia è diversa da quella che c'è in molti altri paesi dell'Europa. Cito anche un altro pezzo, perché forse è una questione che, non so, a me ha molto colpito. Ero molto giovane quando c'è stata la guerra nei Balcani, che è stato sicuramente uno shock per noi europei, che eravamo abituati alla pace post seconda guerra mondiale. Quella è stata una guerra terribile, una guerra civile che è durata molti anni, che si è risolta con lo smembramento di quella che era stata la Jugoslavia, e secondo Paul Mason, che è un giornalista del Guardian e di Channel 4, che è anche un opinionista di internazionale, che come gli articoli precedenti che vi ho citato ha tradotto questo suo intervento, dice che la pace nei Balcani è di nuovo in pericolo, e questa è una questione di cui l'Unione Europea deve occuparsi. Secondo Paul Mason, la regione è tornata al centro delle tensioni. La speranza che la globalizzazione, la crescita economica e il tempo avrebbero risolto i problemi non è mai sembrata così infondata. E scrive Paul Mason: l'Unione Europea deve comprendere i limiti della sua strategia nella regione, che consiste nell'abbassare i criteri d'accesso per i paesi dell'Europa orientale e sud-orientale in modo da includerli nel processo di allargamento. L'Albania è diventata un paese candidato nel 2014, la Bosnia ha presentato domanda a febbraio del 2016, la Macedonia, che nel 2015 si è guadagnata la stima di Bruxelles per aver costruito una barriera contro i migranti al confine con la Grecia, è talmente afflitta dalla violenza etnica e dalla corruzione che un suo ingresso nell'Unione pare impossibile. Eppure ci sono molte voci che lo chiedono. E questo è un altro tema interessante, anche se complicatissimo, e che va affrontato con molta onestà intellettuale, perché se da una parte l'Unione Europea ha interesse ad allargarsi, dall'altra deve comunque mantenere dei criteri molto rigidi, appunto su, per esempio su quanto un paese sia corrotto e comunque sul livello di sviluppo economico e sociale di quel paese per poter essere ammesso. Però allo stesso tempo questo allargamento è alla base del disamore, chiamiamolo così, che in molti paesi negli ultimi anni è cresciuto nei confronti dell'Unione Europea. Succede anche in Italia, sapete che a volte addirittura si arriva a invocare non solo l'uscita dall'euro ma l'uscita dall'Unione Europea, ed è naturalmente, come abbiamo visto, è stato questo disamore per l'Unione Europea che ha portato la maggioranza degli inglesi, anche se una maggioranza molto risicata, ricordiamolo sempre, a votare per la Brexit, che continua a far discutere della possibilità che l'Unione Europea si disintegri, perda altri pezzi dopo aver perso il Regno Unito. Ma a proposito dell'Unione, vediamo come alcuni giornali, in particolare Die Zeit, Die Tageszeitung e El Mundo in Spagna, hanno commentato il discorso di Jean-Claude Juncker, che è il presidente della Commissione Europea, un po' quello, l'equivalente del governo di uno Stato, che ha fatto questo discorso il 18 settembre, due giorni prima del vertice di Bratislava, in cui ricorderete si è vista chiaramente una spaccatura tra i paesi dell'Est e gli altri, e questo discorso tra l'altro non ha convinto molte delle persone che poi lo hanno commentato. Il titolo scelto per riassumere questo discorso, che tutti questi commenti li trovate sul sito che sapete io amo, che è voxeurope.eu, è: il futuro dell'Europa non si deciderà a Bruxelles. Scrive per esempio Ulrich Ladurner della Zeit: il discorso di Jean-Claude Juncker non era né entusiasmante né bello né sublime. Il presidente della Commissione Europea ha provato a reggere il confronto con gli europei spendendo una parola per ciascuno, ma ha preso atto soprattutto dei limiti del suo potere. E anche qui torniamo al fatto che vedendo questi partiti o movimenti che fomentano il disamore per l'Unione Europea, per le istituzioni europee, in molti hanno capito che le istituzioni europee in effetti andrebbero riformate, dalle cose più banali come il fatto che i parlamentari siano strapagati, il fatto che ci siano due parlamenti perché all'epoca si decise di accontentare sia la Francia con il Parlamento di Strasburgo sia Bruxelles, e naturalmente vuol dire il doppio dei costi, ma anche cose molto più sostanziali come il modo in cui vengono decise le regole che poi devono essere applicate a tutti gli stati, per esempio in agricoltura, non tenendo conto delle differenze di quanto pesino in modo diverso i settori dell'agricoltura nei vari paesi, ma solo appunto per cominciare a sollevare dei problemi. Queste sono le riforme che probabilmente l'Unione Europea ha bisogno per tornare a essere qualcosa di cui chi ne fa parte è orgoglioso, anziché vederla come un vincolo, un generatore di burocrazia e di spreco di denaro che poi fa naturalmente sono tutti argomenti che poi servono a chi fa leva soprattutto su ragionamenti così di breve periodo, o come si dice a volte punta alla pancia degli elettori. Ma vediamo un altro articolo, cambiamo un po' argomento perché naturalmente si è parlato anche di tante altre cose questa settimana, e il premier Renzi, che ha fatto veramente un po' il premier globetrotter in questa settimana, perché dopo Bratislava ha girato l'Europa, poi è andato agli Stati Uniti per l'Assemblea Generale dell'ONU, poi è tornato in Italia dove aveva molti appuntamenti importanti, e ha attirato l'attenzione di Le Monde, non è la prima volta, il quotidiano francese, che lo definisce un cavaliere solitario in Europa. E naturalmente il riferimento è soprattutto a quello che è successo, come dicevamo, a Bratislava, dove Francia e Germania, nelle persone di Angela Merkel e François Hollande, hanno fatto una specie di conferenza stampa post vertice non si è ben capito se fosse tutto programmato, Renzi ha fatto la sua e si è capito chiaramente che le tante incomprensioni che ci sono tra Francia e Germania e Renzi, ma tanti altri paesi dell'Unione Europea, non sono risolte. Da qui appunto lui ha deciso di dire che su certe questioni o si trova un accordo o l'Italia farà da sola, naturalmente in primis l'immigrazione, e da qui il commento di Le Monde: Renzi cavaliere solitario in Europa. Purtroppo era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.